Sbrigati! Vengo! E dove andiamo? Al giudice a dare una querela a quel briccon di Nanni! Crepa, tanto ci hai da venir! Dite, signore, in cortesia, starebbe qui di casa un certo Nencio Segarra? No, sorella! Povera me, mi ci mancava questa d'aver sbagliata la strada. Son 4 ore che cammino, signore, e cerco, e chiedo, e me ne informo, e domando, e non lo vedo. Credo d'aver girato tutto il piano. Io ve l'insegnerò, non è lontano. Eccolo là! Il cielo me lo rimeriti, fratello! Mi rendete la vita! Senza peste, in che guai mi ritrovo per questo bel soggetto! Ma bisogna ingozzare a tacer! Dice il proverbio, e chi non ha giudizio bisogna cambia gambe! E che interesse avete voi con lui? Parla, non posso. Mi conviene star zitta e rodere l'osso. Poverino! Mi mette in gran curiosità. Come potete parlar liberamente? Quello è il marito. Cosa dite? Niente. Parola tratta non ritorna in bocca. Il proverbio è chi non sa tacere non so vivere, lo so, non so pettegola tutte buone ricette, ma perugia gran guai gran strida mette. Parlate pur che non rischiate nulla a sfogarvi con me. Ancora voi avete, a quel che vedo, una figliola. E le celle ve la conservi, è grande e bella, è modesta, è da casa. Aprite gli occhi, povera disgraziata, non fate come me, che l'ho affogata. Ella era parte voi, ragazza mia, e savia e bella in tutto il vicinato, se ne faceva. Finché hai i denti in bocca, non sai quel che ti tocca, dice il proverbio. E chi non fa non falla, ma pur la verità sta sempre a galla. E cosa gli è successo? Questo Nencio, un dì di carneval, venne a Perretola. Diceva ognuno che era si buon partito e la ragazza si lasciò lusingare. S'accese il fuoco e tanto ci soffiò dentro il demonio che si fidi soffiato il matrimonio. Nencio ammogliato? Galeotto! Un pezzo fece da buon marito. Poco a poco si raffreddò, stanco si è affatto. Adesso son 3 giorni, fratello, che non si fa vedere, e l'è più andata senza pan, senza carne, e sola in letto con tu. recati? Ad allattare quel povero bambino. Immaginate voi come si fa, perché la botte dà del vinti a. Dice il proverbio: chi mangia rabbia è tossico, non piglia sonno nemmeno col papavero. Se pieno di merito e fuoco sia vero. Oh, che fior di monello, alla giustizia ricorrete, Madonna! Io ve vedere di lidullo se posso con le bolle. Non merita pietà questo briccone. Contraddizioni, esatto.